4, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Una crisi lunga che peserà sulle future generazioni. La Banca Centrale Europea rincara l'allarme e in Italia Confindustria invoca una terapia d'urto. E Berlusconi ha annunciato poco fa per martedì un tavolo per interventi per l'auto. Per Fiat gestione ordinaria record, ma l'utile cala del 16,2%. Non sarà distribuito il dividendo. Stuprata alla fermata dell'autobus a Roma e caccia a due persone. La pace in Medio Oriente e oggi la chiusura di Guantanamo. Obama al lavoro, ma deve rigiurare in privato. Una gaffe durante la cerimonia rischiava di invalidare la formula. Mentre a Gaza tacciono le bombe, riparte il business del contrabbando. Già riattivo il 20% delle gallerie al confine con l'Egitto. Il nostro inviato è sceso in un cunicolo. Tornano gli spettatori negli stadi e, sorpresa, diminuiscono gli incidenti. Positivo dopo anni il bilancio dell'osservatorio per le manifestazioni sportive. GR Extra Large, buongiorno ad Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. Dunque, l'economia mondiale sta attraversando una fase di recessione grave e sincronizzata. A ribadirlo, come se ancora non bastasse, oggi è il quadro tracciato dalla Banca Centrale Europea nel suo bollettino mensile. Ma la BCE va anche oltre i rapporti di cui già vi abbiamo raccontato. Sì, perché dice la Banca Centrale Europea, questa crisi non peserà solo su di noi, ma rischia di pesare anche sulle nuove generazioni. È solo l'ennesimo quadro fosco o c'è qualcosa di più? Allora è rimasta con noi Deborah Rosciani e i dati chiediamo a lei di illustrarceli. Ancora buongiorno. Sì, buongiorno anche a voi. Allora, questione concreta l'avete già anticipata. L'economia mondiale sta attraversando una fase di recessione grave e sincronizzata, mentre, dice la BCE nel suo bollettino mensile, l'acuirsi delle turbulenze dei mercati finanziari freneranno la domanda su scala mondiale e nell'area dell'euro per un periodo di tempo prolungato. Questa è l'analisi che arriva questa mattina. La BCE rileva peraltro che nel corso di quest'anno l'inflazione dell'area euro toccherà livelli molto bassi a metà anno e in prospettiva il calo dei prezzi delle materie prime e l'indebitamento della domanda confermano appunto l'attenuazione di queste pressioni inflazionistiche. Ci sono anche altre indicazioni interessanti, ovviamente si parla anche di quelle che sono le tendenze dell'indebitamento delle famiglie in generale, si parla nel bollettino delle tensioni nel sistema bancario che si sono tradotte in un inasprimento dei criteri per la concessione del credito, in un deterioramento del clima di fiducia e in un crollo dei valori azionari, tutte questioni di cui parliamo ogni giorno che da Francoforte vengono ancora una volta confermate. E peraltro è un rapporto molto interessante perché, come sappiamo, proprio pochi giorni fa la BCE ha di nuovo ridotto i tassi di interesse nell'eurozona, li ha portati al 2%, ma a questo punto si tratta di capire se, confermando questa gravità della crisi, la BCE si appresta a tagliare di nuovo ancora i tassi di interesse, probabilmente a marzo. Sì. Grazie a Deborah Rosciani. E nonostante la frenata dell'economia, soprattutto molto accentuata nel quarto trimestre del 2008, la Fiat ha chiuso i conti con ricavi in crescita dell'1,5%, però non ci saranno dividendi per gli azionisti e per il 2009 le previsioni sono al ribasso. Oggi si è riunito il consiglio di amministrazione del Lingotto, ma di questo parleremo tra poco. Le misure prese dall'Italia contro la crisi sono insufficienti, serve una terapia d'urto, così dice oggi in un'intervista al Sole 24 Ore intanto il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Il presidente del Consiglio questa mattina è all'inaugurazione dell'anno accademico della scuola Ufficiali con il ministro dell'Interno Maroni e della Difesa La Russa. Forse riusciamo a sentire cosa sta dicendo Berlusconi in questo istante. Queste cose qua, guardate chi le dice e pensate e abbiate dentro di voi l'idea che chi le dice è assolutamente disonesto. Questa è una disonestà assoluta. Sull'utilizzo poi dei carabinieri e delle no... Berlusconi, queste alcune parole le abbiamo rubate così al TG5, ma un annuncio l'aveva fatto proprio un istante fa. Ve l'abbiamo in qualche modo anticipato dai titoli, ma lo chiediamo alla nostra Paola Cavadi. Si parlava di crisi? Sì, buongiorno. È un Berlusconi a 360 gradi quello che è appena intervenuto qui a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Ufficiale dei Carabinieri. Berlusconi ha toccato molti temi di primo piano, a partire da Alitalia. Dire che con l'operazione CAI il governo ha deciso di addossare costi aggiuntivi sulle spalle degli italiani, costi che nell'ipotesi di acquisto da parte di Air France non ci sarebbero stati, e dire una bestemmia. I due piani, quello di CAI e quello di Air France, erano, ha detto Berlusconi, sostanzialmente equivalenti. Chi dice il contrario mente spudoratamente. E ancora Berlusconi sulla crisi economica, in risposta alle perplessità espresse oggi su Sole 24 Ore dal presidente di Confindustria Marcegaglia e soprattutto sull'allarme lanciato dalla BCE, Berlusconi ha detto di non sottovalutare le preoccupazioni del momento, ma di non voler neanche gettare benzina sul fuoco. Stiamo lavorando, ha detto, sia a livello internazionale all'interno del G8, sia a livello nazionale, con un piano di 8 miliardi per gli ammortizzatori sociali. E a questo proposito Berlusconi ha annunciato per martedì prossimo, come avete anticipato, a Palazzo Chigi, un vertice sulla crisi dell'auto, settore maggiormente colpito dalla congiuntura economica. E Berlusconi sul fronte internazionale si è poi detto fiducioso nel nuovo corso della presidenza americana. È normale, ha detto, che Obama abbia affrontato da subito e con vigore la crisi in corso a Gaza. E da Roma è tutto, a voi studio. Grazie a Paola Cavadi, cercheremo magari nel corso di giornale anche di farvi sentire le parole di Silvio Berlusconi. All'estero andiamo anche noi intanto. Sì, in Medio Oriente, perché sulla carta sembra reggere la pace nella striscia di Gaza, regge, ma la guerra ha cambiato qualcosa nella striscia? I pesanti raid israeliani non hanno fermato il contrabbando, per esempio, e gran parte di quei tunnel sotterranei che Israele voleva distruggere stanno riprendendo la loro attività. Lo ha raccontato questa mattina sul Sole 24 Ore Ugo Tramballi, che è sceso tra l'altro in uno di questi tunnel armato di torcia, di pile elettrica. Allora lo salutiamo, Ugo Tramballi, buongiorno. Allora, e ti chiediamo di raccontarci come nella striscia di Gaza si torna alla normalità e a quale normalità. Beh, alla normalità precedente alla guerra, per cominciare, cioè con Hamas che è sempre qua e, come direbbero i 68ini, vive e lotta con noi perché ha ripreso il potere e il controllo della situazione. E intanto cominciano i vecchi commerci, poiché la frontiera resta sempre chiusa. I commerci continuano ad essere quelli di contrabbando, proprio a 50 metri, a 100 metri dal confine egiziano, sotto il naso dei poliziotti egiziani, e in una specie di piccolo Klondike islamico dove tutti scavano per sistemare i vecchi tunnel rovinati o semidistrutti dai bombardamenti israeliani, o per continuare con quelli che invece non sono stati distrutti. È stato calcolato che almeno una ventina, circa il 20% degli oltre 1.000-1.500 tunnel non sono stati minimamente toccati dai bombardamenti israeliani, ed è ricominciato il commercio di sempre. È evidente che è difficile che passi attraverso questi tunnel anche il riarmo di Hamas, ma come dicono giustamente i servizi segreti israeliani è solo questione di tempo. C'è dunque da chiedersi per quale motivo si sia combattuto questa guerra per 3 settimane con 1.200 e passa morti. Ugo, sul fronte dell'emergenza umanitaria si parla di 400.000 senza acqua, di profughi. Sono dati della Croce Rossa, appena usciti tra l'altro, Ugo. Qual è la situazione da questo punto di vista? Sì, la situazione non è tragica, ma è sicuramente drammatica. Adesso comunque gli aiuti, se le frontiere sono chiuse ai commerci normali, cioè il blocco economico italiano continua, però invece è anche vero che il passaggio a tutti gli aiuti umanitari è totalmente consentito, quindi già la situazione lentamente migliora. Si parla di 50-60.000 case distrutte, quindi si parla di centinaia di migliaia di palestinesi nuovi profughi. Non dimentichiamo che questa è una striscia che già prima non stava bene: 1.5 milioni di abitanti, circa 900.000 erano profughi, nipoti di profughi o nipoti di profughi palestinesi. Quindi è una condizione nella quale vivono con molta difficoltà da sempre i palestinesi. Quindi la guerra in questo non ha. No, hanno semplicemente aggravato, anche di molto, ma solo aggravato una situazione che già in partenza era ovviamente molto molto negativa. Grazie a Ugo Tramballi. Veniamo invece in Italia, a Roma, per una notizia che è un brutto episodio di cronaca avvenuto ieri. Il sindaco Alemanno annuncia una mobilitazione contro la violenza sulle donne dopo lo stupro avvenuto ieri a Primavalle, quartiere popolare nella periferia nord della capitale. La vittima è una donna di 41 anni. Ad abusare di lei sarebbero stati due uomini, sembra un italiano e uno straniero, che secondo quanto ricostruito dalla polizia l'avrebbero seguita dal capolinea dell'autobus dal quale era appena scesa verso le 10:30 di sera. Approfittando di una zona poco illuminata, i due l'avrebbero trascinata con la forza dietro un cespuglio e lì avrebbero abusato di lei. Ad accorgersi della donna in lacrime e coi vestiti strappati è stato qualche minuto dopo un passante che ha dato l'allarme. La squadra mobile sta ora cercando di identificare i due aggressori. Di uno dei due ci sarebbe già un identikit. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è una notizia appena battuta dalle agenzie. Riguarda la vicenda di Eluana Englaro. C'è una clinica che si è detta disposta ad accoglierla. È la clinica Quiete di Udine, così l'annuncio poco fa della presidente della struttura Ines Domenicali. Si apre dunque una nuova ipotesi, staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti. E ora invece a Torino, dove si svolge la seconda giornata del processo per il rogo alla ThyssenKrupp. Andiamo allora con la nostra Silvia Alparone, buongiorno. Buongiorno, una forte presenza femminile caratterizza il processo Thyssen, di cui qui a Torino si sta appunto svolgendo la seconda udienza. Oltre a Maria Iannibelli, presidente della Corte, sono donne due su tre pubblici ministeri, Laura Longo e Francesca Traverso. Il giudice *ad litem* Paola De Zani e ben cinque dei sei membri della giuria popolare, che vengono scelti con estrazione a sorte. E poi ci sono ovviamente le madri, le mogli e le sorelle delle vittime, anche oggi presenti in aula, con le magliette raffiguranti i volti dei loro uomini morti nell'incidente del 6 dicembre. La parola in aula ora è passata a PM e parti civili. Gli avvocati della difesa della multinazionale tedesca questa mattina hanno chiesto l'esclusione dal processo di molte delle richieste presentate per le parti civili, in parte già ammesse dalla Corte. I sindacati innanzitutto, ma poi anche Comune e Provincia di Torino e 87 dei 103 dipendenti Thyssen. La definizione delle parti civili ammesse al processo è solo una delle questioni preliminari che vengono discusse oggi e su cui la Corte si pronuncerà con un'unica ordinanza, di cui si darà lettura nella prossima udienza che è già stata fissata per il 4 febbraio. Linea allo studio. E grazie a Silvia Alparone. Aumentano gli spettatori negli stadi di calcio, diminuiscono gli incidenti, i feriti e gli arrestati. Positivo il bilancio tracciato dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive del Viminale, che sia davvero una buona notizia? Contrordine. Non è vero che tutto va a picco e che si stava meglio quando si stava peggio. Questa volta, ma tocchiamo ferro, qualcosa va meglio. Negli stadi, secondo il Viminale, la guerra degli ultras si è improvvisamente placata. Almeno se si confrontano le partite del girone d'andata di questa stagione con quella precedente. Prendendo un campione di 1185 partite nella Serie A, B e Lega Professionisti, diminuiscono gli incidenti, i feriti, gli arrestati. Ma non di poco. Quasi del 30% le partite con feriti e dell'80% quelle dove sono stati sparati dei lacrimogeni. E ancora, tra le forze dell'ordine i feriti sono diminuiti del 41%, tra i civili del 66%. Anche gli arresti e i fermi sono nettamente calati, quasi della metà. Questi venti di pace arrivano in coincidenza di altre due tendenze, un aumento del 10% degli spettatori di A e una drastica riduzione delle forze di polizia dentro gli stadi, che, come ricaduta positiva, porta a un risparmio di 7 milioni di euro. Tutto bene, quindi? Ma l'esperienza degli ultimi anni induce a un sano pessimismo e a non montarsi la testa, e a ricordare che Sandri, il tifoso della Lazio, è morto in un autogrill e che l'aggressione all'ispettore Raciti non risale alla breccia di Porta Pia, ma solo a 2 anni fa. Quindi, piano con gli entusiasmi. La nostra intifada domenicale, purtroppo, è sempre dietro la prima curva. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:17, le notizie di oggi extra large. Anche l'Italia si muove, un tavolo per l'auto martedì prossimo, l'ha annunciato poco fa il Presidente del Consiglio. Ci sono particolari settori che necessitano di un intervento, per esempio il settore dell'auto che ha avuto il calo più profondo. Quindi anche per il settore dell'auto io ho dato il via alla convocazione di un tavolo di tutto il settore a Palazzo Chigi, che credo sarà convocato per martedì prossimo, me lo devono confermare. E il gruppo Fiat chiude il 2008 con un utile netto di 1,7 miliardi di euro, in calo rispetto al 2007, da record alla gestione ordinaria, 3,4 miliardi di euro più 4%. Il Consiglio di amministrazione ha deciso che non sarà distribuito alcun dividendo per le azioni ordinarie per preservare la liquidità del gruppo. Nel pomeriggio l'incontro con i sindacati. Crisi, la Banca Centrale Europea conferma la recessione è grave e durerà a lungo. E per i governi un monito a ristabilire un impegno di bilancio. I provvedimenti straordinari decisi sinora contro la crisi, si legge nel bollettino ufficiale della BCE, comportano oneri considerevoli per le finanze pubbliche, ma se non saranno riassorbiti peseranno sulle future generazioni. Due condanne a morte e un ergastolo in Cina per la vicenda del latte contaminato alla melamina. Nel processo imputate 21 persone, tra cui dirigenti e proprietari dell'azienda che lo ha messo in commercio. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha giurato per la seconda volta fedeltà alla Costituzione americana. Il rito è stato ripetuto in privato perché durante la cerimonia dell'insediamento erano stati commessi alcuni errori nel pronunciare le frasi di rito da parte del giudice della Corte Suprema. Risolto l'inghippo procedurale, oggi si attende la firma di Obama per Guantanamo. Drammatica caduta dello sciatore svizzero Daniel Halbrecht nella prova di discesa del Coppa del Mondo di Kitzbühel. È stato trasferito in ospedale in elicottero e avrebbe perso conoscenza. La clinica Quiete di Udine è disposta ad accogliere Eluana Englaro. Oggi intanto così la presidente della regione Piemonte, Mercedes Bresso, ospite a 24 Mattino. Non entro nelle valutazioni del cardinale Poletto perché sono valutazioni religiose, ma noi non viviamo in una repubblica di Ayatollah nelle quali il diritto religioso fa premio sul diritto civile. Attesa per le nomination agli Oscar, il verdetto alle 14.30 nella sede dell'Accademia a Los Angeles. Molti candidati e tanta incertezza per il miglior film. Quest'anno i pretendenti alla candidatura potrebbero essere addirittura una ventina. Are you prepared to take the oath, Senator? I am. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. That I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute the office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Abbiamo fatto un passo indietro, due giorni fa era il giuramento di Obama, anche con il leggero intoppo nella formula di rito. E così il presidente degli Stati Uniti ha giurato per la seconda volta fedeltà alla Costituzione americana davanti al presidente della Corte Suprema. Il rito è stato ripetuto proprio perché durante la cerimonia ufficiale erano stati commessi alcuni errori nel pronunciare le frasi. L'insediamento di Obama è stato un evento anche in termini di partecipazione popolare, con gli americani che ripongono grande fiducia sulla possibilità di superare la crisi, ma il realismo continua a prevalere nell'opinione pubblica. Questo è almeno il parere del console generale degli Stati Uniti Daniel Weigrand al microfono di Cristina Balotelli. Specialmente in questo periodo di crisi è molto importante per il nostro paese che c'è la volontà di riunirsi un po' e per guardare avanti, nel discorso del Presidente questo era per me il tema più importante, che il Paese deve fare qualcosa per ritornare alla strada del progresso che è storicamente tipica per gli Stati Uniti. Cioè ci voleva una grossa iniezione di fiducia per il popolo americano? Sì, è importante per il popolo, anche specialmente importante per i mercati, perché lo stesso giorno che c'era questa grande cerimonia i mercati hanno perso 5% del valore. Questo è veramente una cosa che fa pensare. È molto difficile naturalmente per qualsiasi politica di cambiare il sentimento nei mercati in due settimane, in qualche mese, ma naturalmente questo è per me il messaggio del discorso, che il Presidente pensa di parlare di responsabilità non solo del capitale, non solo delle aziende, ma di tutti. Questo per me è una cosa molto importante. Anche se tutti sanno che le sfide che dovrà affrontare non sono mai state così pesanti. Sì, ma infatti questa è la cosa. Ho mai visto una situazione in cui il senso del realismo era così forte come questa volta, che tutti sanno che abbiamo una situazione mai vista. Una situazione mai vista, dice il console generale degli Stati Uniti al microfono di Cristina Ballottelli. Ma come vivono queste prime ore della nuova presidenza americana i media arabi, in particolare dopo che si è saputo che la prima telefonata ai leader dell'area è andata al numero uno dell'ANP, Abu Mazen? E a questo è dedicata oggi la nostra finestra sul mondo arabo. Le telefonate del nuovo presidente USA ai leader medio orientale in prima pagina su tutti i giornali arabi. Primo giorno di Obama, una riunione per Gaza, recita il titolo di Ashraf al-Awsat. Passo nella direzione giusta, commenta l'egiziano al-Ahram. Discorso magico, scrive il palestinese al-Quds al-Arabi, ma noi non pretendiamo che stia dalla nostra parte, ci basta che ci ascolti e che sia neutrale. Basterebbe che trasformasse le parole in fatti, è invece il commento dell'iraniano al-Wefaq. Intanto Obama vince per 1-0 contro Bin Laden, commenta divertita la TV al-Arabia, riportando la trovata di un barbiere arabo di Chicago che ha cambiato il nome del suo esercizio da Osama a Obama. Adid Fatah Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. Adesso saccheggiamo un po' la satira sui giornali, Vauro. Il razzismo è finito e il dialogo è questo. Gli americani hanno mandato un nero alla Casa Bianca e noi un rom alla casa del Grande Fratello. L'elezione di Obama si è detto che è un fatto simbolico per tutti i cittadini di colore, non solo americani. Allora abbiamo provato a sentire come la pensano alcuni italiani. Dal 20 gennaio il più importante ufficio al mondo è occupato da un uomo di colore. Questo cambierà il modo in cui i bambini neri guardano se stessi e cambierà anche il modo in cui i bambini bianchi guardano a quelli neri. Lo ha detto Barack Obama al Washington Post. Se è vero per l'America, quanto può contare per il resto del mondo, per il resto dei bambini del mondo? Lo abbiamo chiesto ad alcuni scrittori che al fattore colore, per diverse ragioni, non sono estranei. Marco Valeri, docente all'Università La Sapienza di Roma, è autore di Black Italians, atleti di colore che vestono la maglia azzurra, e padre di un ragazzo italo-etiope. Mio figlio ha detto, vedi che anche noi ce la possiamo fare. Lui adesso quest'anno ovviamente vuole andare in America, ci ha detto andiamo in America perché l'America è un paese più aperto, più dove appunto dove essere un po' più scuri di pelle è normale. Hijaba Shego, scrittrice di origini somale. Vale molto per gli Stati Uniti d'America, vale meno per l'Italia perché comunque noi abbiamo un problema serio di immaginario, regna un po' lo stereotipo, che sono anche stereotipi un po' antichi. Il ladro, la prostituta, il criminale, il morto di fame. Ecco, ci vorrebbe un po' anche, no, un immaginario diverso. Così Komla Ebri, originario del Togo, medico e autore del libro Imbarazzismi, quotidiani imbarazzi in bianco e nero. Il fatto di avere oggi un presidente degli Stati Uniti di colore, come si dice, o abbronzato, come dice qualcuno, è già un'idea che le strade sono percorribili, quindi una visione diversa, una speranza diversa per le nuove generazioni, perché hanno un modello. Lo stesso discorso vale ovviamente per i bambini bianchi, che non vedranno più nel nero il colore negativo, ma che anche i neri sono capaci di realizzare qualche cosa, quindi tutto sommato è un buon segnale. Però se io chiedessi agli italiani oggi, è possibile in Italia un domani che ci sia un Presidente del Consiglio di colore? Cioè, molti viene da sorridere. Si è appena arrivato le quote rose in Italia, ma chissà domani le quote nere. Valentina Furlanetto, GR24, Sole 24 Ore. E ancora in America, per il nostro spazio dedicato ai libri, lo spazio che gli dedichiamo oggi, parliamo di un romanzo che negli Stati Uniti ha avuto molto successo. A volte i miracoli accadono anche nell'editoria. L'americana Bruniona Berry ci mette 7 anni per scrivere il suo primo romanzo, lo pubblica a proprie spese, non perché sia stato rifiutato, ma perché, abituata a produrre software testando prima il mercato, decide che anche il suo romanzo ha bisogno di un test popolare. Ne stampa 2000 copie che nel giro di poco vanno esaurite. Arriva così una grande casa editrice americana e la vendita di diritti all'estero per 2 milioni di euro. In Italia è stato appena pubblicato da Garzanti con il titolo La lettrice bugiarda. Protagonista è una donna che ha una capacità particolare, come ci racconta la stessa autrice. Towner Whitney Towner Whitney è la protagonista, ha 32 anni all'inizio del libro, anche se il romanzo ripercorre tutta la sua vita dall'adolescenza in poi. Lei e la sua famiglia hanno un dono particolare, sanno vedere il futuro attraverso la lettura del pizzo. Secondo la zia Eva si tratta di un talento particolare, ma anche di una maledizione. D'altra parte, fin dalla prima pagina, la protagonista ammette: «Io mento». Se lei sia bugiarda o no, sta al lettore decidere. Una donna, dunque, che legge il futuro guardando i merletti e che si trova al centro di una trama fatta di persone che scompaiono, segreti e persecutori. Un romanzo che molti hanno definito un giallo sovrannaturale. Alessandra Tedesco, GR24, Il Sole 24 Ore. E intanto vi ricordiamo anche che da sabato su Radio 24 andrà in onda una nuova rubrica dedicata a chi ama leggere. Si chiama Il Cacciatore di Libri. Sarà in onda tutti i sabati alle 8:24. 13:34 minuti, le notizie di oggi. La Banca Centrale Europea conferma: la recessione è grave e durerà a lungo. E per i governi un monito a ristabilire un impegno di bilancio. I provvedimenti straordinari decisi sino ad ora contro la crisi, si legge nel bollettino ufficiale, comportano oneri considerevoli per le finanze pubbliche. Se non saranno riassorbiti, peseranno sulle future generazioni. E il governo si mobilita per l'auto. Un tavolo martedì a Palazzo Chigi, annuncia Berlusconi. Ci sono particolari settori che necessitano di un intervento, per esempio il settore dell'auto, che ha avuto il calo più profondo. Quindi anche per il settore dell'auto io ho dato il via alla convocazione di un tavolo di tutto il settore a Palazzo Chigi, che credo sarà convocato per martedì prossimo, me lo devono confermare. E intanto il gruppo Fiat chiude il 2008 con un utile netto di 1,7 miliardi di euro, in calo rispetto al 2007. Pesa il quarto trimestre da crisi. Da record invece la gestione ordinaria, 3,4 miliardi di euro più 4%. Nel pomeriggio l'incontro coi sindacati. E il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha giurato per la seconda volta fedeltà alla Costituzione americana. Il rito è stato ripetuto in privato perché durante la cerimonia dell'insediamento erano stati commessi alcuni errori nel pronunciare le frasi di rito da parte delle giudici della Corte Suprema. Risolto l'inghippo procedurale, oggi si attende la firma di Obama per Guantanamo. Lo sciatore svizzero Daniel Albrecht reagisce e risponde alle domande dei medici, l'ha fatto sapere il medico responsabile della gara di Kitzbühel. L'atleta, caduto drammaticamente nella prova di discesa, è ora ricoverato all'ospedale San Giovanni. E caccia i due uomini che ieri sera a Roma, nel quartiere periferico di Primavalle, hanno aggredito e violentato una donna di 41 anni che stava tornando a casa. La vittima avrebbe fornito agli investigatori un parziale identikit. La casa di cura Quiete di Udine è disposta ad accogliere Eluana Englaro. Così intanto oggi a Radio 24 il presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso. Non entro nelle valutazioni del cardinale Poletto perché sono valutazioni religiose, ma noi non viviamo in una repubblica di Ayatollah nelle quali il diritto religioso fa premio sul diritto civile. La pioggia che continua a battere sulla Sicilia sta provocando ancora danni e disagi a Caltanissetta. 11 famiglie sono state evacuate a causa delle frane da Monte Sant'Anna per una massa di fango. Frane e crolli anche in altre zone del capoluogo nisseno. Dunque abbiamo detto che il governo, anche l'Italia, si muove sul settore dell'auto. Il presidente del Consiglio Berlusconi ha annunciato per martedì prossimo un tavolo sul settore. Proprio oggi la Fiat ha presentato i suoi conti, si è riunito il CDA, ma ci sarà un incontro nel pomeriggio anche con i sindacati per spiegare i termini dell'accordo con Chrysler. Andiamo allora a Torino, dove c'è Andrea Malan. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Ci sono anche altre cose sul tavolo del Lingotto, perché si parla di un'altra possibile alleanza con Peugeot, poi anche la ricapitalizzazione, però andiamo per ordine. Cominciamo, Andrea, coi conti. In crescita i ricavi nonostante la crisi, però quest'anno niente dividendo per gli azionisti. Beh, diciamo che l'anno è stato chiaramente a due facce, quindi un buon andamento fino al terzo trimestre e una fortissima frenata nell'ultimo trimestre dell'anno, con un calo del fatturato del 17%, un risultato della gestione ordinaria di 663 milioni rispetto a 947 e addirittura un risultato antiimposta in rosso, con un utile netto poi di invece positivo per 180 milioni contro i quasi 600 dello stesso trimestre dell'anno precedente. Questi sono i dati appunto dell'ultimo periodo, che riflette in pieno la crisi dei mercati, crisi dell'auto con il forte calo delle vendite, il crollo dei vari mercati che tutti conosciamo, ma anche forte difficoltà per il settore dei veicoli industriali, dove il fatturato nell'ultimo trimestre è sceso ancora di più che nell'auto. Ha tenuto invece il terzo comparto importante del gruppo, cioè quello delle macchine per l'agricoltura e le costruzioni, e questo appunto ha permesso, come avete ricordato voi, un risultato complessivo del 2008 accettabile per esempio per quanto riguarda il risultato della gestione ordinaria a 3,362 milioni di euro, è diciamo praticamente affiorato quella che era la previsione fatta ancora qualche mese fa da Marchion di una forchetta tra i 3,4 e i 3,6 miliardi. Ovviamente quello che cambia con questo ultimo trimestre, con la situazione dei mercati e della congiuntura economica, sono le prospettive per il 2009. In questo senso si inquadra il taglio del dividendo a fronte di una previsione che è stata dettagliata oggi per l'anno in corso di un calo della domanda globale del 20% rispetto a un anno già negativo come il 2008. La domanda dovrebbe calare un po' meno per quanto riguarda il gruppo Fiat, cioè il gruppo Fiat prevede di tenere un po' meglio rispetto a questo meno 20%, ma comunque avrà un calo del risultato della gestione ordinaria da appunto 3,3 miliardi a poco più di un miliardo di euro, quindi un forte calo, e con un utile netto che dovrebbe attestarsi a 300 milioni di euro o poco più rispetto al 1,7 miliardi di quest'anno, comprensibilmente. Certo. Quindi insomma, le cifre vanno anche lette un po' poi a mente fredda, altrimenti assolutamente. Andrea, parlavamo di alleanze e poi c'è anche questo tavolo invece che ha annunciato da pochissimi minuti Berlusconi per l'auto. Sì, di alleanze oggi nel Consiglio di amministrazione non si è parlato di alleanze prospettiche, se non di quella appena siglata con la Chrysler, che sulla quale il lingotto conta molto, sperando anche appunto che in una rapida soluzione della crisi, sappiamo che in cui è la Chrysler, quindi con l'arrivo dei nuovi fondi statali e la definizione della nuova struttura dell'azionariato, Fiat trarrebbe grandi vantaggi dall'intesa con Chrysler, sia in termini di riduzione dei costi che di potenziale rientro sul mercato americano per alcuni dei suoi prodotti. Quindi questo è un po' il dossier per quanto riguarda le alleanze. Per quanto riguarda gli aiuti, sappiamo che i vertici del gruppo, sia Montezemolo che Marchionne, hanno più volte ricordato nei giorni scorsi e nelle settimane scorse che quello che conta è una parità di trattamento fra i vari paesi a livello europeo. Ora è chiaro che con tutti i paesi più importanti, dalla Germania alla Francia, ma anche alla Svezia e alla Spagna, che erano scesi in campo già per sostenere certo. I rispettivi settori auto, era quasi una... C'è una parificazione, insomma, almeno da questo punto di vista. E poi, dall'altra parte dell'oceano, gli Stati Uniti, che hanno fatto anche molto di più. Grazie per ora ad Andrea Malan sul versante Fiat. Intanto, non sono previste ripercussioni significative, invece, per quanto riguarda la circolazione dei treni, in occasione dello sciopero di parte del personale delle Ferrovie dello Stato, sciopero proclamato da alcuni sindacati per domani, vi ricordiamo, dalle 9 del mattino alle 17. Il numero da chiamare per avere informazioni 89 20 21. E se martedì si annuncia un tavolo per l'auto, domani dovrebbe invece esserci il Consiglio dei Ministri per esaminare la riforma della giustizia. Dovrebbe, ieri però questo invece è un fatto, al termine di un confronto non semplice la maggioranza ha trovato l'intesa sul nodo delle intercettazioni. Resteranno per i reati sopra 2 anni, ma anche per concussione e corruzione. Sempre ieri l'Associazione Nazionale Magistrati ha criticato la scelta di incentrare il dibattito su temi come l'assetto della magistratura o la separazione delle carriere, e ha posto la questione invece dell'efficienza, con una proposta: accorpare tra loro gli uffici giudiziari che hanno meno di 20 o addirittura 10 unità. E allora, se questa è la proposta dell'Associazione Nazionale Magistrati, che irrompe così nel dibattito sulla riforma della giustizia, Paolo Piacenza ha sentito che cosa ne pensa il ministro ombra del Partito Democratico, sempre della giustizia, parliamola, Franco Tenaglia. Mi pare che ci sia una virata a 360 gradi del Premier, che sta facendo una marcia indietro. Aspettiamo di leggere il testo definitivo che presenteranno in Parlamento. Ci sono ancora profonde divisioni, ma comunque quello che è uscito dalla porta non deve rientrare dalla finestra. Una limitazione ai tempi delle intercettazioni eccessiva, si parla di 45 giorni, sarebbe un errore altrettanto grave che limitare le intercettazioni per reati fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini, quali le rapine, i furti o l'associazione per delinquere. L'Associazione Nazionale Magistrati ha posto un altro tema, ha controbattuto con il tema dell'efficienza proponendo di accorpare gli uffici troppo piccoli, cioè quelli sotto i 20 magistrati. Qual è la sua opinione su questa proposta della ANM? Guardi, l'ANM ha ragione in questo punto, ma il Partito Democratico ha presentato da 6 mesi un disegno di legge intitolato all'efficienza per la giustizia che comprende la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, non solo con l'accorpamento dei tribunali ma anche con la previsione dell'organico unico per più uffici limitrofi, in modo da garantire una flessibilità organizzativa che oggi manca. E questo disegno di legge è già in discussione in Commissione Giustizia al Senato, ma la maggioranza sfugge, non vuole concludere, non è d'accordo perché ha interessi localistici da tutelare a discapito dell'interesse generale dei cittadini ad avere una giustizia che funzioni. Giulia Crivelli, buongiorno, siamo alla Stampa Estera. Cominciamo magari dalla Germania. Sì, oggi una notizia che ci riporta alle notizie economiche, no? Sì, ovviamente la Germania è, come tutti i paesi europei, alla presa con un rallentamento economico. Secondo la Frankfurter Allgemeine Zeitung, oggi al Bundestag arriverà il nuovo testo di 2 leggi che sono relative a quello che è stato chiamato il Mindestlohn, che letteralmente vuol dire salario minimo. Al momento esiste già un salario minimo, ma la legge propone di estenderlo ad altre 7 categorie. E queste 7 categorie, quindi oltre a operai edili, dipendenti di ditte di pulizie e postini, ci saranno anche gli addetti al raccoglimento rifiuti, vigilanza sicurezza, assistenza domiciliare e alcune altre categorie. Questo naturalmente per tutelare quelle che sono oggettivamente le categorie già con gli stipendi più bassi in un momento in cui ci sono tutte le difficoltà che sappiamo. Il Times cosa ci racconta oggi? Ma naturalmente voi, come i nostri ascoltatori possono immaginare, i giornali sono sempre pieni di Obama, e in questo caso il Times parla proprio di Obamomics, cioè l'economia secondo Obama e il suo staff. Obama l'ha detto, è stato un passaggio molto interessante del suo discorso, dice: il mercato resta comunque il modo migliore per creare ricchezza, ma abbiamo capito che deve essere regolato. Quindi secondo il Times, secondo il commentatore l'impronta del Times, è questa. E l'impronta è esattamente questa, creare al più presto possibile un nuovo set di regole. Un equilibrio diverso. Grazie Giulia Crivelli anche per oggi. 13:47 minuti, titoli. La Banca Centrale Europea conferma la recessione grave durerà a lungo. Per i governi un monito a ristabilire un impegno di bilancio. I provvedimenti straordinari decisi sino ad ora contro la crisi, si legge nel bollettino ufficiale, comportano oneri considerevoli per le finanze pubbliche, ma se non saranno riassorbiti peseranno sulle future generazioni. E il governo si mobilita per l'auto, subito un tavolo, dice Berlusconi, ne parleremo martedì a Palazzo Chigi. Il gruppo Fiat intanto chiude il 2008 con un utile netto di 1,7 miliardi di euro in calo rispetto al 2007. Pesa il quarto trimestre da crisi. Da record invece la gestione ordinaria, 3,4 miliardi di euro, più 4%. 2 condanne a morte, un ergastolo in Cina per la vicenda del latte contaminato alla melanina. Sotto processo 21 persone, tra cui dirigenti e proprietari dell'azienda che lo hanno messo in commercio. Drammatica caduta dello sciatore svizzero Daniel Albrecht nella prova di discesa di Coppa del Mondo di Kitzbühel. È stato trasferito in ospedale in elicottero, ma avrebbe ripreso conoscenza. Attesa per le nomination agli Oscar, il verdetto alle 14:30. Molti candidati e tanta l'incertezza per il miglior film. Quest'anno i pretendenti potrebbero essere addirittura una ventina. La Cina ha deciso dunque la linea dura per la vicenda del latte contaminato alla melamina nel processo che vede imputate 21 persone, tra cui dirigenti e proprietari dell'azienda che lo hanno messo in commercio, andando anche contro le indicazioni delle Nazioni Unite per i diritti umani, scegliendo cioè la pena di morte, che però in Cina, lo ricordiamo naturalmente, non è un'eccezione. E allora andiamo a Pechino da Luca Vinciguerra. 2 condanne a morte e 2 ergastoli. La Cina usa il pugno duro contro i responsabili dello scandalo del latte alla melamina, che lo scorso autunno aveva causato la morte di 6 neonati e l'avvelenamento di oltre 300.000 bambini in tutto il paese. La sentenza è stata emessa stamattina da un tribunale della provincia di Hebei. Nonostante la richiesta di perdono lanciata qualche settimana fa dai colpevoli, i giudici non hanno avuto pietà. Zhang Jiuyun e Zhang Jinping, le 2 persone che hanno ordito materialmente la frode alimentare, finiranno sul patibolo. La signora Tian Wenhua, all'epoca dei fatti potente presidente della Sanlu, l'impresa casearia al centro dello scandalo del latte contaminato, è stata invece condannata all'ergastolo insieme a un altro imputato. Come è accaduto altre volte in passato, in casi di alta corruzione, Pechino ha deciso dunque di colpirne uno per educarne 100. Il messaggio per il paese è chiaro: il governo non è disposto a tollerare chi ruba dalle casse dell'erario e nemmeno chi mette a rischio la salute pubblica. E chi sbaglia paga. Luca Vinciguerra, GR24, Il Sole 24 Ore, Shanghai. Brutto incidente di sci oggi durante le prove di discesa di Coppa del Mondo a Kitzbühel. Albrecht, il sciatore, il campione svizzero, è caduto. Come sta? Allora lo chiediamo a Dario Puppo. Ma pare che stia meglio, soprattutto ha riportato un ematoma al cervello, una contusione polmonare, però la cosa più importante è che risponde alle domande dei medici. Ha subito questo brutto infortunio sull'ultimo salto della Strife, è caduto di schiena, ha perso conoscenza, sono stati davvero lunghi i soccorsi, l'hanno trasportato all'ospedale di St. Johann e adesso ovviamente seguiranno degli accertamenti. Comunque pare che stia meglio. Nella prova cronometrata vinta da Body Miller, dove Hell è arrivato quarto. E allora grazie del buona notizia comunque dell'aggiornamento. Grazie Dario Puppo. 600 km a nord-est di Arkhangelsk, la spedizione Oltre prosegue il suo viaggio in fuoristrada lungo il passaggio a nord-est. Ne siamo già occupati. Al limite tra la foresta e la desolata tundra abbiamo raggiunto al telefono satellitare il vice capo spedizione Gianni Maccagni. Buongiorno a tutti, in questo momento siamo a circa 85 km da Mesin, che per noi rappresenta la fine delle strade in senso tradizionale. La temperatura in questo momento è di 19 gradi sotto lo zero e sta cominciando a nevicare un pochettino. Diciamo che comincerà da oggi pomeriggio, la parte di off-road vera e propria per raggiungere il Narian-Mar. Stiamo lasciando le ultime parti di foresta, tra pochissimo abbiamo già avuto le prime visaggi, i primi segni di tundra che andremo poi ad incontrare e attraversare. Per tutta la giornata di ieri e tutta la notte costeggiato alcuni grandi fiumi e adesso stiamo arrivando in Mesegna, che è proprio il capoluogo di questa regione a nord, a 500 km a nord di Arkhangelsk. È davvero incredibile, davvero piacevole scoprire che per qualche strana ragione in diversi posti abbiamo trovato persone con le riviste, alcune riviste di fuoristrada con le fotografie dei nostri mezzi, oppure quando ci siamo fermati nei locali, in qualche locale per prendere qualcosa di caldo, gente che ci aspettava, come se un tantano avesse cominciato a preavvisare, a preannunciare il nostro passaggio in questi villaggi che ricordo il più delle volte sono fatte da 10-12 case, non di più, e distanti magari 60-70 km l'uno dall'altro. Oltre a un'avventura multimediale, vi ricordo che sul sito radio24.it e ilsole24ore.com trovate tutti gli audio e i video di questa avventura invernale nell'Artico. Tra mezz'ora si conosceranno le 5 finaliste per gli Oscar. Gomorra, escluso, sapete, come film straniero, potrebbe tornare in gara in altre categorie. Vi racconteremo cosa sceglieranno i giudici, ma prima cerchiamo di tentare qualche anticipazione. Molti candidati e tanta l'incertezza. Per l'Oscar per il miglior film quest'anno i pretendenti a una candidatura potrebbero addirittura essere una ventina. Da Milka d'Australia, da Changeling a Revolutionary Road, da The Wrestler a Slumdog Millionaire, il film di Danny Boyle ambientato in India che ha già vinto ai Golden Globes. E se è sicuro che l'Italia con Gomorra è rimasta fuori dalla corsa per il miglior film straniero, c'è ancora la possibilità che arrivino piacevoli sorprese da quella miriade di persone che lavorano dietro le quinte del nostro cinema, ovvero tecnici, montatori, costumisti e scenografi. A sorpresa poi potrebbe arrivare una nomination per Gabriele Muccino, che con il suo Seven Pounds, Sette Anime, è molto piaciuto al pubblico americano. Per quanto riguarda le categorie più importanti, sembra piuttosto scontata la vittoria come migliore attore non protagonista per l'attore australiano Heath Ledger, morto un anno fa per un overdose da farmaci. Memorabile la sua interpretazione del Joker nel Cavaliere Oscuro. Per quanto riguarda invece l'Oscar alla migliore attrice protagonista, sembra in vantaggio Meryl Streep, che la sua ultima statuetta la porta a casa nel lontano 1983 e questa volta potrebbe avere una nomination per il suo ruolo in Dapt. A competere con lei potrebbero esserci altre leggende del cinema, da Nicole Kidman a Kate Winslet, da Anne Hathaway a Sally Hawkins. Per quanto riguarda i migliori attori, infine, la scelta è davvero difficile. Una nomination su tutte potrebbe essere quella di Sean Penn, ma anche quella di Mickey Rourke, fresco di Golden Globe. La premiazione dell'Academy con le statuette domenica 22 febbraio prossimo. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24. 24 ore. Insomma, per sapere le nomination basta aspettare mezz'ora, perché ve le racconteremo. Ve le racconteremo. Intanto è tutto per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizi e Anna Migliorati in studio, il coordinamento era di Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. Extra Large @radio24.it. Vi ricordo ancora una volta il nostro indirizzo se volete scriverci. Come sempre nel pomeriggio gli aggiornamenti delle altre edizioni di GR24. L'edizione Extra Large torna domani a partire dalle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.